Capitolo 7. La trasformazione e il senso del corpo sottile. Quindi l'anima profonda, per mezzo di un lungo e a volte faticoso intervento della guaritrice, potrà essere convinta a riprendere pienamente il controllo di una persona e a non lasciarla al destino di insicurezza e di nichilismo che di norma incombe su coloro che sono stati abbandonati dalla propria parte sottile. Come si è detto, i modi per favorire un evento di questo genere sono diversi, a seconda delle situazioni e delle caratteristiche dell'anima da richiamare, ma si basano essenzialmente sul potere della guaritrice di proiettare l'amor naturale e su quello di creare o ricercare quelle atmosfere molto particolari che abbiano le magiche caratteristiche dell'incanto. Per mezzo dell'incanto può essere percepita la comunione con la natura e con gli spiriti della natura, che a volte possono in tali situazioni manifestarsi e apparire nella loro gioia e nella loro naturalezza. E quando tali situazioni si ripetono per un numero di volte sufficiente ed ovviamente variabile da caso a caso, l'anima profonda riprende il controllo della persona e l'io pensante diventa un suo strumento totalmente consapevole di ciò che è successo e succede. A questo punto scompare l'angoscia esistenziale, il senso della vita diventa del tutto evidente. Poteri dimenticati di intuizione, di sensibilità sottile e a volte di veggenza, derivanti dal rimanifestarsi dell'anima sottile all'interno della persona, vengono acquisiti dalle fortunate persone alle quali ciò, malgrado i tempi, accade, e il manifestarsi di tali poteri è la prova del risultato raggiunto, quando ovviamente però essi sono reali e non delle fantasie profondamente vissute o delle storie non corrispondenti al vero. O delle paranoie, come in genere sono certi pseudopoteri di quelle persone che si sono autoconvinte o sono state convinte da qualche spirito burlone che ama prendersi gioco di chi cerca cose che non gli competono, di essere dei grandi veggenti e dei grandi maghi. In particolare, tale avvenimento cambia totalmente il senso del corpo fisico. Esso non viene più percepito come l'unico ed irrinunciabile mezzo per vivere e per agire, ma il fatto di prendere realmente coscienza di una dimensione sottile e autonoma e che può esistere anche senza basarsi ed appoggiarsi su di esso, permette di sdrammatizzare molte situazioni come l'ammalarsi, il naturale decadimento del corpo con l'avanzare dell'età e la stessa morte fisica. Infatti, anche il corpo fisico, così come l'io pensante e senziente, viene percepito e vissuto dalla parte sottile dell'individuo come un rivestimento o un'immagine materiale di se stesso. È evidente di conseguenza che quanto più il punto di riferimento della persona si sarà trasferito dal caduco e limitato nel tempo io pensante a quella dimensione, che può esistere anche senza corpo e senza io esterno, quale l'anima perenne, tanto più gli accidenti riguardanti l'io e il corpo si svuoteranno dell'assoluta importanza che di norma posseggono per le persone normali. Naturalmente lo scrivere di queste cose in questi termini ben poco senso avrà per chi certe cose non ha conosciuto e vissuto. Forse più senso avrà per chi nel leggere queste righe cercherà di impegnarsi per ottenere il ritorno del dominio dell'anima naturale in sé, anche a costo di gettar via una gran parte di se stesso, mentre esse appariranno del tutto normali solamente a chi, nel segreto del suo antico operare, tali cose già ha conosciuto e sperimentato, magari all'insaputa, come è giusto che accada a questo proposito degli amici, dei conoscenti e dei parenti. Del resto, come già ho scritto a questo proposito, il segreto e la riservatezza non solo hanno lo scopo di tutelare da invidie, maldicenze ed incomprensioni la persona che, malgrado i tempi e i costumi, opera o si fa aiutare in questo particolare ambito, ma essi sono indispensabili perché certi risultati possano essere conseguiti. Ciò perché i misteri della Grande Madre, misteri devono rimanere, e certamente nulla, se non in certi casi delle paranoie e delle beffe che potrebbero essere anche atroci da parte degli spiriti burloni e degli spiriti guardiani che vegliano su questo genere di cose, potrebbe trovare chi si avventura in questo campo sperando di poter ottenere il guadagno e il successo anche solo per soddisfare qualche curiosità o per verificare teorie o ipotesi dell'io pensante. Costoro, dopo inutili sforzi e tentativi, si ritroveranno al punto di partenza, ovvero imbroglieranno se stessi pensando di essere o di aver trovato ciò che si erano riproposti, ma che in realtà altro non è se non una maggiore confusione mentale o un senso dell'io gonfiato all'inverosimile, che prima o poi potrebbe esplodere con tragiche conseguenze. Ma per coloro che invece veramente riusciranno a conoscere e a vivere le esperienze di incanto e di comunione naturale, fino al punto di far sbocciare nuovamente in loro la consapevolezza e la certezza dell'anima perenne, e riusciranno a mantenere a questo proposito il segreto, né per tale motivo prenderà piede in loro l'orgoglio, la presunzione o il senso di superiorità, veramente le cose cambieranno. La gioia, la libertà, l'amore, la semplicità, la naturalezza e tutte le altre naturali virtù dell'anima perenne prenderanno gradualmente in loro il posto di tutte quelle insicurezze, tristezze, preoccupazioni, depressioni e via dicendo che di frequente sono padrone degli uomini e delle donne di questi tempi. La gioia di chi avrà ottenuto la guarigione totale, ovvero appunto il ritorno in posizione di dominio nella persona della sua parte sottile, non sarà più solo in relazione a ciò che è accaduto, che accade o che accadrà, né gli stati di gioia si alterneranno in modo assoluto, come accade a tutte le persone normali, in relazione ai momenti belli e brutti della vita, agli stati tristi o di noia o di apprensione, ma il continuo riferirsi dell'io sensibile e dell'io pensante al centro sottile dell'individuo sarà il motivo per cui l'umore di chi avrà ottenuto tale risultato sarà più stabile ed armonico e difficilmente potrà essere totalmente coinvolto in squilibri emotivi dovuti a cause esterne. In particolare, cambierà, come ho già detto, il senso del corpo fisico. All'interno di esso si percepiranno in modo chiaro, quando a ciò si presterà un minimo di attenzione, le energie vivificanti dell'anima sottile muoversi come piccoli rivoli di benefica e vivificante energia in percorsi che si ripetono all'infinito, in un intimo rapporto tra la dimensione sottile e la dimensione materiale che è la causa della manifestazione fisica e corporea in questo mondo, ovvero della vita. La consapevolezza di tali movimenti di energia interiore non può ovviamente essere ottenuta se non si è raggiunta la consapevolezza della propria parte sottile, che di tali movimenti è la causa naturale agente. Ciò spiega perché nella scienza materialistica ufficiale non esiste alcun riferimento a tale tipo di circolazione, dato che essa non è percepibile se non da chi ha acquisito il potere di sentire al di là della materia, né è del resto ovviamente misurabile, pesabile o fotografabile con alcun apparecchio scientifico, dato che tali apparecchi non potranno mai investigare in dimensioni extramateriali. Invece, la consapevolezza dell'anima naturale permette di sentire e di intuire realtà sovrasensibili, ovvero di norma del tutto ignorate e poco conoscibili dal semplice io esterno, sia fuori sia dentro di sé. Per quanto riguarda appunto la circolazione dell'energia interiore, essa certamente avviene anche nelle persone del tutto normali, ma senza che esse se ne rendano assolutamente conto. Essa è stata profondamente studiata in Oriente e da tali studi sono derivate certe tecniche di terapia, come l'agopuntura, che in questi ultimi tempi stanno ottenendo un certo successo, anche in Occidente, e sulle quali esistono diversi libri e studi. Ma sia ben chiaro che non è certo leggendo un libro o imparando i nomi cinesi dei percorsi dell'energia vitale nel corpo o ancora facendosi pungere da qualche professionista di questa antica scienza che si può dire di avere capito ed inteso questa sottile circolazione di energie. Infatti, una conoscenza nozionistica e mentale in questo campo è, per chi ha o per chi sta iniziando ad intuire la conoscenza naturale che permette di sentire dentro di sé le forze sottili che si muovono, del tutto limitata. Una conoscenza solo nozionistica, riferita a dimensioni sottili, potrebbe essere paragonata a quella che ha un cieco dalla nascita delle forme dei colori, ovvero anche alla conoscenza che si può avere in un paese straniero, di un paese straniero solo leggendo dei libri o consultando degli atlanti geografici. Vi è una gran differenza. In altre parole, tra chi sa per averlo letto o sentito dire che certe energie salgono o scendono per una certa via piuttosto che per un'altra nei corpi delle persone, e chi tali movimenti di energie vitali può contemplare o sentire in modo vivido dentro di sé. Chi riesce ad arrivare a tale punto può conoscere l'incanto interiore, ovvero quella situazione di armonioso equilibrio che deriva dal guardarsi e dal sentirsi dentro, dopo aver messo a tacere l'io pensante ed aver scacciato tutte le preoccupazioni, i problemi e i pensieri, anche banali, che di norma sono padroni della mente umana. Il riuscire a insegnare a sentire il silenzio della mente e a concentrare l'attenzione per lunghi periodi solo all'interno di se stessi è uno degli obiettivi più importanti sulla via della guarigione assoluta. Infatti, le persone normali non conoscono assolutamente tale modo d'essere e per essi il silenzio della mente vuol dire sonno profondo in coscienza. Eppure, basterebbe guardare un gatto che ben accoccolato fa le fusa e che non dorme, né è completamente sveglio, o osservare gli animali in genere quando si rifugiano in una situazione di armonia statica, ben accovacciati ed emananti, per chi può sentirli, gioia e tranquillità naturale, per intendere che oltre all'attività fisica e mentale e oltre al sonno, vi può essere un altro modo di stare, un modo che magari va cercato, dato che per mezzo di esso si può conoscere e agire in dimensioni precluse al normale io pensante e senziente. In particolare, per le donne, a causa della loro fisiologia intima che le porta naturalmente a sentire all'interno di se stesse l'incanto interiore, dovrebbe essere più facilmente realizzabile di quanto in questi termini dovrebbe essere per la controparte maschile. Ciò anche perché il praticare a lungo tale forma di concentrazione interna in modo ottimale porta alla percezione di un languore profondo, intenso e duraturo, per certi aspetti paragonabile a certe sensazioni che si possono provare durante i migliori rapporti intimi con i mariti o i fidanzati più sensibili e più attenti al sentire femminile. Anzi, a questo proposito occorre dire che il riuscire per una donna a praticare in modo ottimale tale forma di incanto, concentrando particolarmente l'attenzione sulle zone profonde del proprio corpo, quelle zone nelle quali pulsa dolcemente il principio sottile dell'umore profondo, nel quale esistono infinite possibilità di generazione e di rigenerazione, può portare a una conoscenza del tutto inspiegabile in termini di logica e di parole, che si potrebbe definire la conoscenza dell'eterno grembo fecondo della Grande Madre. Infatti, proprio nella sacra percezione del magico umore di una donna, che si sia adeguatamente purificata e liberata di tutte quelle false concezioni che hanno cercato di convincerla che certe percezioni o sono peccaminose o sono un fatto puramente fisiologico, ovvero hanno il solo senso di forza generativa, vi è la chiave dell'autorigenerazione, nel senso che la forza generativa presente in tale sacro umore può essere usata per rigenerarsi, per trasformarsi, per guarire le proprie e le altrui malattie e soprattutto per avere delle esperienze sottili sempre più avanzate e sempre più vivide. Devo anche dire che quelle donne che veramente riescono a conoscere nel profondo di se stesse il grembo fecondo della Grande Madre, sempre con maggiore difficoltà riusciranno ad avere rapporti con gli uomini della loro vita storica, fidanzati, mariti o amanti che siano, dato che in essi sentiranno sempre di più una dimensione profana e profanante, che sempre di meno riusciranno a tollerare e nella quale intuiranno un limite alla loro evoluzione interiore. Quanto più esse poi si allontaneranno dall'amore fisico profano, che ovviamente non va visto come qualcosa di peccaminoso, così come si usa nella religione dominante in Occidente, ma semplicemente come un qualcosa di non conveniente e inadatto agli scopi di trasformazione interiore che ci si ripropone, quanto più forse potranno avere l'esperienza di una dimensione di amore sacro che la ripetuta e prolungata pratica per mesi e per anni dell'incanto interiore indubbiamente permette di conoscere. Si tratta, e anche in questo caso occorre dire che quanto segue non può avere nessun senso per chi non ha vissuto questa esperienza e per chi cerca di conoscere le cose usando solo la parte pensante e razionale di se stesso, della percezione di una dimensione di calore dolce e languido nel quale vi è l'amore per ogni manifestazione materiale e sottile del mondo, e viene appunto percepita a livello intimo in seguito alla pratica prolungata dell'incanto interiore. Tale percezione Potrebbe essere inizialmente intesa come una energia che viene da una dimensione sottile esterna, una energia calda e maschile che nei momenti di più profondo incanto interiore si congiunge con l'energia umida e femminile presente nelle profondità del grembo di colei che si è purificata e liberata di tutti quegli aspetti superficiali, profani, volgari o falsi che quasi sempre caratterizzano l'essere donne in questi tempi. Sia ben chiaro che tale energia non è e non può essere personificata, ovvero riferibile a un individuo o a una persona, come succede nei rapporti di amore profano. Essa è, infatti, un'energia pura, che si può manifestare solamente quando una donna è riuscita a realizzare in se stessa il femminile assoluto, al punto da poter prescindere da qualsiasi riscontro, riferimento o appoggio al maschile storico e personalizzato, che è caratteristico dei rapporti di coppia. Essendo energia pura, essa può fondersi sempre di più con colei che è riuscita ad operare un simile prodigio, fino a diventare parte integrante del suo essere. In altri termini, colei che dopo anni ed anni di lavoro interiore sarà riuscita ad arrivare fino a questo punto, non sarà più solamente donna, anche se la femminilità e tutti i positivi attributi di sensibilità, intuizione, dolcezza e amabilità ovviamente rimarranno la parte più caratteristica del suo essere, ma in lei sarà anche presente una parte maschile che si manifesterà anche come forza d'animo, decisione, potenza e volitività. In costei saranno quindi presenti l'acqua e il fuoco, la tenerezza e la forza, la sensibilità e il potere di agire, la luna e il sole, la notte e il giorno, la ricezione e la proiezione, in un intrecciato amoroso equilibrio che diventerà la parte più reale della persona. È evidente che chi possiede sia il potere del femminile, sia il potere del puro maschile, ben diverso ovviamente dal maschile tirannico, geloso, violento e prepotente, che purtroppo sembra il modo di essere evidente o latente degli uomini dei nostri tempi, diventerà simile a quelle persone leggendarie delle ere primigenie, nelle quali si narra fossero presenti le due nature in armonico equilibrio e alle quali pare fosse sconosciuto il senso di privazione che spinge gli uomini a cercare le donne e viceversa, al fine di completarsi l'un l'altro.